24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:33 minuti, eccoci qui cari ascoltatori, una nuova settimana di 24 mattino in diretta fino alle 9 e vi voglio subito lanciare il sondaggio che già trovate su radio24.it, un po' in basso a destra nella sezione bianco-nero. Oggi parliamo del Partito Islamico, che è nato in Spagna e che qualcuno ha detto forse arriverà anche in Italia, il Partito Islamico. Cercheremo di capire cosa si tratta e cercheremo di capire, e vi chiediamo che ne pensate, lo accettereste in Italia un partito islamico, sì o no? Votate, alle 8:30 ne parleremo, ora la lettura dei giornali. In primo piano. Beh, la vicenda del lite, possiamo chiamarla lite, all'interno del governo, le parole di Brunetta ieri al Corriere della Sera hanno innescato una polemica, parole contro il collega Tremonti e dell'apertura un po' dei giornali. Berlusconi difende Tremonti, respinte le accuse di Brunetta, il Corriere della Sera. Per la stampa Tremonti non si tocca, è un virgolettato attribuito a Berlusconi. Il Messaggero, Brunetta Tremonti, lite nel governo, per il Quotidiano Nazionale sono i duellanti e la foto ovviamente riprende loro due. Repubblica invece punta sulla giustizia, c'è un'intervista a Carlo Azeglio Ciampi. Ciampi no a leggi ad personam. Queste un po' le aperture, vedremo le altre. Ma rimaniamo proprio su questa vicenda, insomma, le parole di Brunetta che ha detto Tremonti è uno che dice no, dice troppi no, ci vuole la ripresa, dice no ovviamente per quel che riguarda i soldi, per lanciare le riforme bisogna dare un po' più di soldi, mentre lui tiene la borsa chiusa. Essendo il ministro dell'economia, oggi dai giornali, insomma, il tesoro disorientato, telefonata con il cavaliere, a pagina 3 del Corriere della Sera, l'ennesimo violento attacco, il ministro dell'economia non ha voluto dare peso e comunque non la dignità di un commento. Al tesoro, leggendo la sua intervista, dicono di essere rimasti letteralmente disorientati. Tra l'altro il Corriere della Sera cerca di sentire i vari ministri, così per sentire il polso del governo, in un articolo di Paola Di Caro, ma insomma parlano in pochi, molti non parlano, molti silenzi, gli ex AN compatti, non servono le polemiche. Si registra la battuta del ministro Rotondi. È una dotta disputa economica tra baroni universitari, sulla quale noi semplici ministri abbiamo poco da dire. Questa è la battuta più simpatica di Rotondi. E c'è da dire che Berlusconi, che è in viaggio di Stato all'estero, viene definito irritato. Questa è la parola che trovate più accostata a questa vicenda. Berlusconi irritato, detta la linea, deve rimanere una stecca isolata. E avrebbe dato il mandato a Gianni Letta di parlare coi ministri. Nessuno segua la linea Brunetta. È caldamente consigliato che nessuno gli vada dietro. Anche sul giornale, Silvio, infastidito dai bisticci, ristabilisce l'ordine nel PDL ad Alberto Signore, che è l'inviato a Doha in Qatar, a seguire appunto il Premier. C'è qualche intervista, parla Mario Baldassarri, che è il presidente della Commissione Finanza al Senato, parla in due interviste sia al Quotidiano Nazionale sia alla Stampa. La Stampa dice abbassiamo le tasse o tradiamo il mandato. Perché viene intervistato Baldassarri? È un economista finiano, vicino a Fini, ed è colui che ha fatto tutta una serie di emendamenti alla finanziaria, per cui si è detto anche lui sarà in qualche modo contro Tremonti e a favore di Brunetta. Professor Baldassarri, chiede appunto la Stampa, lei sta con Tremonti o con Brunetta? Se altri ministri vogliono dare l'assalto alla diligenza della spesa pubblica non mi va bene, Tremonti ha ragione nel sostenere che il deficit non deve aumentare. E infatti c'è qui lo stupore, ma come? È proprio lei al Senato che ha presentato emendamenti che facevano a pezzi la manovra di Tremonti. Il problema che ho posto io, dice Baldassarri, è fare una politica di sviluppo mantenendo il rigore. Lei è stato anche viceministro dell'economia, ma io ho provato a tagliare le spese improduttive. Nei primi anni ce l'ho riuscito, poi il tentativo è stato fermato da resistenze trasversali. E chi è a resistere? Beh, la spesa pubblica in eccesso è nell'interesse di 200.000 persone soltanto, è fatta di appalti, forniture, consulenze a prezzi gonfiati. Oggi foraggiano persone con greghe. Nel vecchio sistema politico servivano a finanziare i partiti. Oggi invece coi contributi a fondo perduto alle imprese diamo soldi. Non a imprese vere, ma alla mafia, alla camorra, all'andrangheta. Per questo propongo di sostituirli col credito d'imposta. Insomma, non un'intervista incoraggiante da questo punto di vista. Tra l'altro la Stampa mette un editoriale in prima pagina, Luca Ricolfi, il sociologo, che spiega: il tappo non è Tremonti, dice Ricolfi. Fa una lunga introduzione in cui dice: tre sono in natura le strategie di sopravvivenza: l'attacco, la fuga, la simulazione della morte. La tigre attacca, la gazzella fugge, ma il caso più interessante è quello degli animali che assumono una postura perfetta di immobilità per mimetizzarsi con l'ambiente circostante e fingersi morti. Ebbene, dice Ricolfi, nella politica economica è la stessa cosa se guardiamo la storia della Repubblica. Nella breve stagione dal 92 al 98, ossia della svalutazione della lira, sono gli anni della finanziaria da 90.000 miliardi, è l'anno dell'attacco. Poi, nel biennio 2006-2008, con Prodi, prevalse la fuga. Oggi, secondo Ricolfi, sia nel 2008 sia nel 2009, tornato Tremonti, il cardine della legge finanziaria è il non intervento, la ferma volontà di non modificare gli andamenti tendenziali dell'economia. E dice Ricolfi, la politica che non affronta i problemi non mi è mai piaciuta, però ecco la critica in qualche modo dall'altra parte. Tuttavia devo confessare che ultimamente capisco sempre di più l'inerzia di Tremonti. Non mi piace, ma la capisco. E perché la capisce Ricolfi? Perché spiega: in politica le alternative non sono tra quel che il governo fa e quel che le menti illuminate pensano. In politica le alternative vere sono solo tra forze in campo, tra gruppi e schieramenti realmente esistenti. E finora le forze che hanno combattuto Tremonti lo hanno fatto quasi sempre in nome di politiche che, se messe in atto, sarebbero risultate più dannose della linea di contenimento praticata dal Tesoro. Insomma, dice Ricolfi, forse Tremonti non fa e questo non piace molto, ma se facesse quelle che sono le proposte alternative sarebbe anche peggio. Tra l'altro, legato a Tremonti, c'è sulla Stampa, rimango ancora sulla Stampa, Tremonti bond a rischio flop, perché sapete che i Tremonti bond, che dovevano servire per dar credito a piccole e medie imprese, sono state chieste da 4 banche. Per ora ne hanno fatto richieste al Banco Popolare, la BPM, Montepaschi e Creval, per un totale di 4,05 miliardi. Solo 2 però hanno completato l'iter e solo una, il Banco Popolare, li ha incassati. E dunque ritardi e burocrazia: su 4 banche che li hanno richiesti solo una ha incassato. Secondo la Stampa il rischio è quello di un flop. Insomma, lasciamo il tema del diverbio Brunetta-Tremonti e veniamo all'altro grande tema, che è quello della giustizia, che rimane, rimarrà da qui a Natale, quando entro Natale dovrebbe essere approvato il processo breve. Il tema della giustizia animato, l'Unità lo mette in prima pagina, mette 2 magistrati di spalle, anonimi, in un corridoio giudiziario, in trincea, questo è il titolo, scontro sul processo breve, il PDL accelera, domani al Senato cresce la protesta dei magistrati. Come detto, Repubblica ci apre e mette più che un'intervista, un colloquio che Massimo Giannini, il vice direttore, ha fatto con l'ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Viviamo un tempo triste, inizia così Ciampi. Negli anni finali della mia vita non immaginavo davvero di dover assistere a un simile imbarbarimento dell'azione politica, un'aggressione così brutale e sistematica delle istituzioni e dei valori nei quali ho creduto. Basta con le leggi ad persona, ma questo è il titolo. Veda, dice Ciampi, la mia amarezza deriva dalla constatazione ormai quotidiana di quanto sta accadendo sulla giustizia, non solo però sulla giustizia, è in corso un vero e proprio degrado dei valori collettivi. Non è più questione di battaglia politica, qui si destabilizzano i riferimenti più solidi dell'edificio democratico, le istituzioni, si umiliano i valori che le istituzioni rappresentano. Questa è la mia amara riflessione. E poi dice Giannini, non fa per carità il nome di Napolitano, non fa appelli, ma dice: io non do consigli a nessuno, ma il capo dello Stato tra i suoi poteri ha quello della promulgazione, se una legge non va non si firma, e non si deve usare come argomento che giustifica sempre e comunque la promulgazione che tanto se il Parlamento riapprova la legge il Presidente è costretto a firmarla. Intanto non si promulghi la legge in prima lettura. Credo che chi ha cuore le istituzioni oggi valga per lui l'unica regola da rispettare, quella del quantum potes, fai ciò che puoi, detto altrimenti resisti. E insomma, sono parole molto forti, un colloquio molto molto significativo, quello che trovate a pagina 3 di Repubblica con Carlo Azeglio Ciampi, anche se la giustizia è piena di articoli, inchiesta per esempio sulla stampa, 9 milioni di processi da smaltire, ci sono 10 domande, ormai la formula delle 10 domande è usata molto. Quanti sono i processi pendenti, quanto durano, quanti rinvii, insomma un vademecum molto didascalico sulla lentezza della giustizia. E a proposito di lentezza della giustizia, prendo il Corriere Economia, allegato al Corriere, Sergio Rizzo, il giudice lumaca non paga dazio, una storia incredibile di Carlo San Giorgio, giudice del Tribunale Civile di Trento, prima a Trento, poi si è spostato, o meglio in un tribunale trentino, in realtà non so se proprio a Trento, si occupava di cause civili, lavorava prendendosi tutto il tempo necessario, secondo Sergio Rizzo. Nell'85 fece una causa sostanzialmente per una cosa stupida, una banale causa, una compravendita di un'auto usata, ci ha messo 7 anni per fare il primo grado di giudizio, credo. O meglio, no, l'udienza collegiale è stata fissata dopo 5 anni e mezzo, poi si è stato trasferito, poi insomma altre vicissitudini, insomma per 17 anni per il primo grado di giudizio. Come è finita? Chiaramente le parti in causa lo hanno denunciato lo Stato, hanno chiesto risarcimento per giusta causa, e per la durata ragionevole, non ragionevole in questo caso, dei processi, il risarcimento è stato di 4.286 euro. E dice Sergio Rizzo, il giudice lumaca non paga dazio, trascinare cause civili per decenni costa solo 1 euro al giorno di multa. Un contenzioso su un'auto durato 17 anni, doveva durarne 3, secondo la sentenza di chi ha condannato il giudice a questo risarcimento, misero peraltro. Ebbene, così funziona. In primo piano. Per chiudere il tema giustizia troverete anche molto dei commenti, reazioni a quello che ha detto il PM Armando Spataro ieri a Luce Annunziata. Spataro è un PM di Milano. Che ha detto tra l'altro sul processo breve vedo una logica aziendale, ci sono critiche, accuse, ecco le toghe magistrate, ma insomma questo è un dibattito che si porta avanti da anni, quindi lo trovate approfondito anche oggi sui giornali. Sul Sole 24 Ore, professionisti in ritardo sull'email certificata, è una cosa mea culpa, anch'io non la sapevo, lo ammetto, da giornalista dovrei saperla 2 volte, primo perché sono giornalista e secondo perché dovrei dare anch'io l'email certificata, cosa che ovviamente non ho fatto. Che succede? 3 professionisti su 4 ancora senza una casella di posta elettronica certificata e manca una settimana dalla scadenza imposta da un decreto anticrisi di fine 2008, 2 milioni di appartenenti all'ordine e ai collegi devono dare appunto una casella di posta certificata. Il Sole 24 Ore fa sapere che manca una settimana e quanti sono per ora? 550.000, insomma un quarto di professionisti. All'interno ci sono anche i bravi e i non bravi, perché non so, per esempio i promotori finanziari il 100% non l'ha data, cioè non l'ha data nessuno, gli architetti invece l'hanno data tutti, 140.000, so, si vede che l'ordine si sarà impegnato per loro, voglio sperare, oppure i chimici, il 98% dei chimici non ha ancora dato la posta, la casella di posta certificata, così il 95% degli agrotecnici, insomma andate a vedere un po' come siete messi, mentre il Sole 24 Ore mette anche a pagina 3 che cosa? La graduatoria del Ministero riguardante l'università, sostanzialmente il Ministero ha fatto una graduatoria anche per distribuire i fondi relativi al merito, troverete tutte le università che hanno ottenuto di più e quelle che hanno ottenuto di meno. A Roma e Bologna sono le università da 110 e lode, secondo la classifica del Ministero. La Sapienza e l'Alma Mater sono in testa alle classifiche sugli indicatori di qualità introdotti dal Ministero. E c'è una pagina molto interessante di Gianni Trovati. Io prima di abbandonare la politica, perché la politica è diciamo catalizzata da questa discussione che c'è stata ieri dopo le parole di Brunetta eccetera, però non posso non citare quello che c'è sul Corriere della Sera, pagina 5, anche perché solo il Corriere della Sera lo cita: il medico di Mamma Rosa. Mamma Rosa è la mamma di Silvio Berlusconi. Mi candido in Calabria. L'idea è venuta a Silvio Berlusconi. Il premier ha chiesto a Bernardo Misaggi, 55 anni, calabrese di nascita, ma primario di chirurgia vertebrale all'Istituto Pini di Milano, dunque a Milano, colui che ha curato sua mamma, Mamma Rosa, di candidarsi a governatore della Calabria. Una scelta che annullerebbe quella di Giuseppe Scopelliti, sindaco di Reggio Calabria, tanto che ci sarebbero, secondo questa ricostruzione, già gli uomini di AN, Gasparri in testa, assolutamente allarmati e imbarazzati. E Misaggi dice qualche parola al Corriere: gli ho detto che sarei orgoglioso a Berlusconi di servire la mia terra. Tra una battuta sul Milan e sulla sanità abbiamo parlato anche di Calabria, lui mi è sembrato entusiasta di questa mia scelta. Insomma, pare che ci sia già un comitato pro Misaggi. Ripeto, Bernardo Misaggi, 55 anni, primario a Milano, medico della mamma di Berlusconi, sarebbe candidato o potrebbe candidarsi a governatore della Calabria nelle prossime regionali. Trovate moltissimo anche di Brenda. Vi risparmio tutto quello che è la vicenda dell'inchiesta. Vi segnalo solo che Fiorenza Sarzanini, per esempio, scrive sul Corriere che il famoso computer di Brenda trovato sotto l'acqua, eppure non risultava che avesse neanche un computer, dunque mistero nei misteri. Che cosa c'è? Goffredo Buccini sul Corriere della Sera fa quello che insomma che è un po' il gossip che pare circoli per Roma, e cioè cercare di capire chi sono le persone fantomatiche, se poi ci sono, nella lista dei clienti di Brenda, che è stata trovata morta. Quella lista dei 12 clienti, l'ultimo rebus della capitale. Ebbene, è tutto un cercare chi è Chiappe d'Oro, ormai sdoganato. Oppure Batman, Macchia Nera, insomma, dietro la maschera ognuno può vederci chi gli pare, scrive Goffredo Buccini, che va anche a intervistare qualcuno. Per esempio va a chiamare Alfonso Pecoraro Scagno, che dice molto freddamente: io è vero dissi della mia bisessualità, ma guardi, so già perché mi chiama, so che il mio nome gira e quali altri nomi girano, siete ignoranti, siccome uno è bisex pensano che vada per forza coi trans, posto che io i trans li rispetto e lo scriva, con loro non sono mai andato, piuttosto ci vanno quelli sposati, lei per dire sarebbe nel target, risponde Pecoraro Scagno a Goffredo Buccini. Le segnalazioni di chiusura, forse ce n'è tempo per un paio, forse una: denunciate al comune i clandestini. Questo succede, secondo Repubblica, nel paesino di San Martino d'Allargine, dopo la vicenda che ha tanto suscitato scalpore di White Christmas, Bianco Natale. San Martino all'Argine, in provincia di Mantova, 25 km da Mantova, avrebbe affisso il comune, l'amministratore comunale, una comunicazione per il paese che viene pubblicata anche da Repubblica: chiunque fosse a conoscenza della presenza sul territorio comunale di immigrati clandestini è pregato di comunicarlo con tempestività al sindaco, alla polizia municipale, all'ufficio anagrafe dei comuni per i necessari atti conseguenti. Grazie della collaborazione. Chissà se anche questo susciterà le polemiche di White Christmas. Ci dobbiamo fermare allora con quest'ultima segnalazione. Ricordo il sondaggio che potete votare su radio24.it o sole24ore.com. Il partito islamico è nato in Spagna, lo accettereste in Italia? Per ora già votate e l'81% dice di no. 24 mattino. Siamo qui alle 8 e 18 minuti in punto. Ben ritrovati a 24 mattino e siamo pronti per una nuova settimana di economia. Soldi e dintorni. Eccoci, una settimana che inizia con una Deborah Rosciani. Buongiorno. Esattamente come è finita, peraltro, certo, quell'altra. Oggi straordinariamente allegra. È bello iniziare un lunedì una settimana. E sai come mi sei mancato 2 giorni, stamattina ti rivedo. Ma e certo, mi metti sempre di ottimo umore. Diciamo così. Mettiamola così. Mettiamo che adesso si sta anche avvicinando il Natale. Ecco, esatto. La prendo un po' alla larga. Esatto. E però non è vero, cioè non, nel senso che non è un'osservazione sciocca, sarà anche presto per parlare di Natale, ma secondo me qualcuno ha già cominciato a mettere la testa sui regali che potranno essere fatti ai propri cari, a familiari ed amici. Allora ci si chiede se, dato il frangente economico di crisi e quindi un po' delicato per molte famiglie, potrà essere un Natale all'insegna del risparmio, visto che questo è un periodo in genere in cui è difficile operare delle rinunce radicali e dire di no ai regali. Quello che si può ragionevolmente prevedere quest'anno è che magari si sceglieranno regali meno costosi, un po' come è successo l'anno scorso. C'è un grande ente che in questo periodo drizza le antenne perché cerca di tenere sotto controllo gli acquisti di un certo tipo delle famiglie, cioè quelli che riguardano i beni durevoli della casa. Stiamo parlando di Underwriters Laboratories, adesso sembra un nome piuttosto complicato, ma quello che fa è molto semplice ed è anche molto importante. È un grande ente che è impegnato da oltre un secolo, è nato negli Stati Uniti, nella certificazione della sicurezza di innumerevoli prodotti, e in questo periodo questo ente sta facendo una campagna molto importante, molto seria, per invitare le famiglie italiane a seguire suggerimenti a volte anche semplici ma intorno ai quali spesso non facciamo grande attenzione, per ridurre il rischio di potenziali pericoli in casa e per saper scegliere i prodotti migliori anche senza affidarsi a grandi marche troppo costose. Scelte che per esempio riguardano in questo periodo anche i regali per i nostri bambini, gli addobbi per l'albero di Natale. Allora, buongiorno a Marcello Manca, che è amministratore delegato di UL, adesso io non so esattamente come pronunciarla, all'inglese e in italiano. Dottor Manca, buongiorno. Buongiorno, ho pronunciato perfettamente. Benissimo. Grazie. Allora, i vostri osservatori sono più attenti a come vanno i consumi in questo periodo, giusto? Sicuramente, il Natale è da sempre un periodo abbastanza critico, critico per due motivi. Uno, perché ci addobbiamo le case, mettiamo su le luci, aumentiamo l'ammontare di apparecchi elettrici, di collegamenti elettrici che facciamo intorno alla casa, vuoi per l'albero, vuoi per le luci esterne. Chiaramente c'è tutto un insieme di suggerimenti che vorremmo dare e che cerchiamo di pubblicare, di distribuire per quanto si può fare all'interno di una casa, per come gestire la sicurezza del Natale all'interno della casa. Mm-hmm. Però lo spunto che mi dà lei oggi è quello dei regali. Questo è uno spunto che ha una sensibilità particolare in questo anno di crisi, in questo anno dove inevitabilmente siamo tutti un pochino condizionati nello spendere e nel voler fare un regalo al quale comunque non vorremmo rinunciare, ma chiaramente andremo al negozio sicuramente condizionati. Un po' più leggeri anche nel portafogli, esattamente. Precisamente. Il messaggio che noi vorremmo distribuire è di stare molto, ma molto attenti al tipo di prodotto elettrico che andiamo a regalare. Nel senso, sappiamo che per legge tutti i prodotti elettrici devono portare su questo marchietto CE, questa si chiama in gergo marcatura CE, che fa parte di una legislazione europea che obbliga tutti i produttori esteri e non ad applicare questa marcatura sul prodotto. Attenzione, perché per la semplice natura del fatto che questo marchietto è obbligatorio, lo mettono tutti. Non si può vendere un prodotto senza la marcatura CE, di conseguenza essa non rappresenta una garanzia che il prodotto sia sicuro. Ecco, adesso magari andiamo anche alle tipologie di certificazione alle quali dobbiamo prestare attenzione, dottor Manca, però io mi chiedo, ma esistono ancora nel XXI secolo dei rischi effettivi legati all'utilizzo degli elettrodomestici? Si rischia davvero di trovare apparecchi di scarsa qualità nei punti vendita più noti, grandi centri commerciali, ma anche il piccolo negozietto sotto casa? Non è già un ambito super presidiato, ipercontrollato? Dovrebbe esserlo e vorremmo tutti sperare che lo fosse, però obiettivamente noi in Europa abbiamo un pochino la tendenza a non essere molto comunicativi. Quando faccio un esempio molto pratico, se noi acquistiamo un ferro da stiro e l'abbiamo pagato 15 euro, è facile che qualche problema accada. Mettiamo un caso pratico, successo esattamente a dei familiari, il prodotto si scioglie o la carcassa non regge l'urto, si spezza, si spacca, uno cosa fa? Cioè, l'ho pagato 15 euro, prendo, lo butto, la prossima volta ne compro un altro. Ma, è raro che il consumatore europeo si prenda la briga di tornare dal rivenditore e dire guarda che mi è successo questo, ed è esattamente quello che dovremmo fare, perché così aiuteremmo il prossimo utente, il prossimo compratore ad essere allerta o se non altro ad evitare un acquisto che No, nel nostro caso si è sciolta di vicino, eravamo pronti a staccare la spina e buttare via il prodotto. Certo, quindi in sostanza in altri casi, il basso prezzo, come dire, non sempre giustifica esattamente l'acquisto di un prodotto di minor qualità, nel senso che se volessi regalare a Natale adesso ad Alessandro Milan un bel, come dire, ferro da stiro, che è l'elettrodomestico che lei ha citato, anche se io volessi spendere poco, non è detto che per il fatto che io spendo 15 euro devo proprio trovare appunto un prodotto che si scioglie e che non risponda agli standard più elementari di sicurezza. Bravissima, bravissima. E sotto questo aspetto il suggerimento che diamo noi è di non accettare la semplice marcatura CE per i motivi che abbiamo appena detto, ma di cercare un altro marchio, un marchio, come si suol dire, di certificazione di parte terza. È importante questo, perché solo gli enti che sono abilitati, accreditati, dove hanno personale, laboratori trainizzati per fare questo tipo di attività, possono dare questo tipo di garanzia. Il piccolo produttore da qualsiasi parte del mondo ha delle difficoltà obiettive ad attrezzarsi in casa con i laboratori, con i tecnici, con le norme, con tutto ciò che serve per dire il mio, ritorniamo all'esempio, ferro da stiro è sicuro. Questo lavoro viene fatto da enti abilitati a questo scopo. Per cui l'incoraggiamento che diamo a tutti i consumatori e a chiunque vada ad acquistare un prodotto elettrico per un regalo è di cercare di fianco alla marcatura CE un altro avallo, un altro marchio che dia la tranquillità che il prodotto sia stato. Che può essere il vostro, ad esempio, dottor Manca? Adesso no, perché sembra poi che facciamo una trasmissione dedicata alla vostra certificazione, però mi chiedo se il vostro è uno dei tanti e se ce ne sono anche altri similari, insomma, quali sono i bollini di certificazione più comuni, terzi, accanto a quello CE? Obiettivamente sì, l'importante, sì, ci siamo anche noi in questo campo, ma non solo, sono tanti gli enti che prendono seriamente la scienza della sicurezza e come tali li vediamo marchi GS, vediamo marchi UL, vediamo marchi scandinavi, vediamo marchi italiani. L'importante è che ci sia un marchio di parte terza a fianco al prodotto, e se uno ha qualsiasi dubbio sulla validità del marchio, siamo in un secolo dove l'accesso ad internet e l'elettronica, l'informatica ci vengono in aiuto immediatamente, controlliamo se non siamo sicuri, ma normalmente se troviamo un marchio di supporto, devo dire tutti i colleghi europei e non sono molto molto seri e il nostro lavoro lo prendiamo tutti molto seriamente. Allora, non so quanto ancora mi manca, credo di aver terminato il tempo a nostra disposizione, magari ci ritorneremo, dottor Manca, su questi argomenti. Peraltro non abbiamo avuto modo di parlare anche di una ricerca che avete condotto con Eurisco per conoscere qual è l'attenzione riposta nei confronti della sicurezza domestica, quali sono gli atteggiamenti che vengono comunemente adottati per prevenire i principali rischi di incidenti, e sembra che il 63% per esempio delle mamme italiane sia interessata a scoprire come identificare prodotti sicuri e certificati, ma poi magari non si hanno gli strumenti per orientarsi bene in questo campo. Allora ci torneremo, dottor Manca. Intanto io la ringrazio per la sua disponibilità e le auguro una buona giornata. A presto. Alessandro, cosa ridi? Un ferro da stiro. Guarda, penso che tua moglie sarebbe solo contenta, no, se tu le dessi. Poi c'è anche gente che scrive: a che ti serve un ferro da stiro? A che mi serve un ferro da stiro? Chissà cosa mai ci si potrà fare con un ferro da stiro. Ti comprerò un frullatore, dai, o una macchina del caffè. No, va via bene. A conto allora. IRPEF sconto del 20% quest'anno a chi è destinato, quindi cerchiamo un po' di orientarci in indovinate questo. Indovinate cos'è? Il tema di Salva Danai. Ma guarda che sei veramente tutta testa stamattina. Ma accidenti, ti serve un ferro da stiro. Vado a stirare un po', vado a stirare. Allora, noi partiamo dal sondaggio che dovete votare, state già votando in tanti. Il Partito Islamico è nato in Spagna e qualcuno dice sta arrivando in Italia, arriverà in Italia. Che ne pensate? Lo accettereste il Partito Islamico? Tra poco potete anche chiamarci all'800240024 per intervenire. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Per la politica, Berlusconi difende il ministro dell'economia Tremonti dopo le accuse del collega Brunetta, che aveva detto Tremonti con i suoi no rischia di bloccare la ripresa. Sulla giustizia invece comincia domani al Senato l'iter del processo breve. L'obiettivo della maggioranza è approvare la legge entro Natale. Critico il PM di Milano Armando Spataro, che parla di una legge ispirata a una logica aziendale, e insorge la maggioranza. Stamattina è stato arrestato il presidente del Potenza Calcio, Giuseppe Postiglione, con altri dirigenti sportivi. Il motivo dell'arresto: presunte scommesse sportive. Nel mirino la partita di Serie B Ravenna-Lecce dell'aprile 2008, sulla quale il presidente del Potenza avrebbe scommesso vincendo 86.000 euro. E infine, per il calcio giocato, la Juventus ha battuto l'Udinese 1-0 nel posticipo, rimane seconda a 5 punti dall'Inter, vince anche il Milan 4-3 sul Cagliari, terzo posto a 7 punti dai nerazzurri, mentre nella Roma, che risorge, 3-1 al Bari, tripletta di Totti. E dunque, alle 8.35 minuti, siamo pronti per il sondaggio di oggi, eccoci qua. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Eccoci, in Spagna qualche giorno fa è stato dato l'annuncio, con anche qualche comprensibile timore espresso da Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, è nato il Partito Islamico, il primo partito islamico nell'Unione Europea. E qualcuno ne parla anche in Italia, la possibilità di la nascita di un partito islamico. Che ne pensate? Vi inquieta, vi preoccupa, oppure accettereste tranquillamente la nascita di un partito islamico? Dovete votare su radio24.it e devo dire che per il momento l'81% è un po' preoccupato, dice non lo accetterei. Io vorrei partire da Mario Borghezio, che saluto. Buongiorno Borghezio. Buongiorno e buona Padania. Europarlamentare della Lega, lei si è anche mosso in Parlamento europeo, credo, a dire preoccupazione. Perché è preoccupato? Sì, certo, perché indubbiamente con i tempi che corrono, con un Islam fondamentalista in continua espansione e dati i collegamenti emersi ormai indubitabilmente fra queste reti del fondamentalismo politico estremista islamico e la multiforme rete di Al-Qaeda, c'è poco da stare tranquilli. I partiti islamici si presentano, anche quando volessero presentarsi sotto una veste moderata, nascondono sempre il rischio di infiltrazioni fondamentaliste e quindi sono, come dire, agenti reali, effettivi o potenziali del peggiore virus che oggi circola in Europa, quello dell'estremismo islamico, radice del terrorismo. Però le chiedo, per Borghezio, c'è una ragione sì, prudenziale. Per quale motivo devono essere ammessi in Europa, nell'Europa che dice di combattere tutti i fondamentalismi, per quale motivo si deve consentire un'infiltrazione nelle nostre istituzioni dei nostri peggiori nemici? Però le chiedo, Borghezio, dentro di me mi sono fatto una scommessa silenziosa a dire chissà quanto ci metterà Borghezio a evocare subito, giustamente, la minaccia del terrorismo islamico. Non è il problema, noi non abbiamo mai fatto una questione di lotta di religione. Io non personalmente nulla contro la religione islamica, tant'è vero, guardi, che sta per uscire in edicola Il Borghese del Nord, di cui sono io animatore, e io per primo ho preso contatto con lo sceicco Pallavicini, che rappresenta un Islam moderato, un Islam credibile, un Islam insospettabile di legami anche soltanto vagamente confessionali, vagamente teologici con le frange estremiste. Ho affidato personalmente a questo luminare della teologia islamica un articolo sul significato della croce, no, del simbolismo della croce. La mia obiezione era questa: un fondamentalista non sarà così stupido da intrupparsi in un partito e quindi essere così riconoscibile, voglio dire. Purtroppo il fondamentalista cerca di stare nell'ombra. È un'obiezione che presenta dei lati deboli, perché l'esperienza insegna e soprattutto le indagini insegnano che i fondamentalisti non girano con la scritta "sono un fondamentalista" sulla maglietta, ma si nascondono molto bene. Gli autori degli attentati di Londra erano tutti pretesamente dei bravi ragazzi di seconda e terza generazione, frequentavano le scuole, erano perfettamente integrati, non giravano con la scritta "sono un fan di di Bin Laden. E quindi quale migliore copertura di una copertura istituzionale, magari di un bel ruolo di consigliere comunale, Dio non voglia. Allora, io voglio salutare anche Khaled Fouad-Allam, buongiorno professore, editorialista del Sole 24 Ore, tra l'altro insegna sociologia del mondo musulmano a Trieste. Voglio salutare anche Zedine Elzir, buongiorno e ben ritrovato, portavoce dell'UCOI. Ha sentito Borghezio Elzir dire Dio non voglia assolutamente anche il partito islamico, ci manca anche questa. Partiamo dalla Spagna, che ne pensa della vicenda spagnola? Attenzione, l'annuncio è stato fatto a Granada, città simbolo della riconquista, anche questo, insomma, Zedine Elzir, cos'è, una provocazione? Non credo, innanzitutto noi come UCOI non appoggiamo, no, direttamente neanche indirettamente, diciamo, la creazione di un partito che ha ispirazione religiosa islamica. Certamente noi invitiamo tutti a partecipare, perché crediamo alla partecipazione o un senso di responsabilità che uno deve partecipare alla vita sociale, politica, lavorativa del paese dove si trova. Detto questo, credo, questo è anche dall'altra parte una maturazione delle persone che vogliono dare il loro contributo alla zona dove si trovano, dove vivono, non solo economico o sociale, ma anche politico. Ma c'è qualcuno che vi ha interpellato magari per fare, per esempio, Abdelhamid Shari, che presiede il centro islamico di Viale Jenner a Milano, ha detto che la possibilità di fare delle liste civiche in qualche modo alle amministrative, partire da una sorta di aggregazione politica amministrativa, c'è. Devo essere sincero, da più di un anno diverse persone a livello personale hanno interpellato noi come UCOI così, e noi abbiamo dato la nostra opinione che preferiamo che chi, diciamo, le piace un partito di destra, di sinistra, di partecipare con altri, diciamo, partiti, ma di non fare un partito di ma comunque tutti sono liberi a anche fare il partito islamico. Cioè, dite a queste persone, aggregatevi ai partiti che già ci sono, sostanzialmente. Sì, io credo nel nostro paese abbiamo abbastanza partiti, perciò creare altri partiti, comunque la libertà e la nostra democrazia permette anche di creare altri partiti, perciò ben venga. Io, professor Fouad-Allam, tra l'altro è stato anche in Parlamento, insomma ha fatto politica attiva, che ne pensa? Insomma, ci deve preoccupare l'annuncio che viene dalla Spagna, come Angelo Panebianco ha detto, oppure no, è un annuncio quasi una sorta di spot? Io mi preoccuperei piuttosto per i musulmani che avrebbero l'intenzione di iscriversi domani all'interno di un partito o di una cosiddetta lista islamica, perché in realtà questo va totalmente al contrario del processo di integrazione, cioè inserirsi all'interno di un partito islamico o di una lista islamica significherebbe chiudersi all'interno di una gabbia etnica, e questo è un impedimento totalmente di fronte alla già difficile situazione dell'integrazione delle comunità o degli individui che sono musulmani. Poi c'è un'altra cosa, cioè il partito islamico non dovrebbe essere paragonato a ciò che è successo per il cristianesimo, la democrazia cristiana, perché non c'è nessuna riflessione, ecco, di un teologo, diciamo, di un intellettuale in grado di fornire ciò che potrebbe essere il rapporto fra Islam e democrazia. Siamo ben lontano, ecco, di tutto ciò che è successo nella storia della democrazia cristiana 100 anni fa. E vedo per il conseguimento, ma per i musulmani, questa tendenza a chiudersi all'interno di ciò che io chiamo delle gabbie etniche, e poi i musulmani non devono fare della loro religione un vettore portante della loro condizione, situazione, una cosa che dovrebbe essere privata, perché la democrazia e l'integrazione vanno in questo senso, e sarebbe pericoloso trasformare tutto ciò in una specie di gruppo di pressione. E Zedine Elzir, la questione, cioè, che le chiedono esattamente? Vi faccia capire un po' questo punto. Le persone che immagino non vuole dirci da che parte provengono, geografiche, cosa sono a livello locale, regionale, comunale, rappresentanti islamici, che le chiedono riguardante al fatto di voler entrare in politica? Ci dica qualcosa in più su questo. Diciamo, a noi prima di tutto la nostra opinione come una rappresentanza di una bella fetta della comunità islamica. Dall'altra parte loro vogliono rivendicare i loro diritti, sia del luogo di culto, di maggior integrazione, di maggior partecipazione alla vita di tutti i sensi. Certamente io vorrei sottolineare, e dipende dalle persone che lo fa un partito, certamente condivido con il professor Allam che può essere anche una gabbia, perciò dipende tutto dalla persona che fonda, il gruppo di persone che fondano, se hanno l'obiettivo veramente di chiudersi o di loro vedano questo uno strumento di aprirsi. Questo è da vedere ancora. Comunque io nella mia intervista a proposito a Klaus Davi l'ho detto che abbiamo diversi partiti in Francia, in Gran Bretagna, e non credo che hanno creato questa paura. Questa paura che invece Borghezio ha e dalla quale voglio ripartire. Però lei ci ha detto una cosa interessante, più luoghi di culto, più partecipazione, questo chiederebbero le persone che si sono rivolte a voi a dire come facciamo per avere più rappresentanza politica. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora, detto che è salita all'82% quelli che sono i contrari alla possibilità di un partito islamico in Italia, onorevole Borghezio, sentite Zenir El Zir a dire: chiedono più, chi si è rivolto a noi, più luoghi di culto, più moschee, più partecipazione, possibilità di capire come intervenire sulla politica per avere più rappresentatività. Sì, che si chiedono più moschee mi sembra una cosa preoccupante, dal momento che ne sono sorte come funghi, sono centinaia e centinaia, solo nel nord siamo ben oltre i 500 moschee. Ma non sono moschee però, sono luoghi così, non sono ufficiali. Non sono ufficiali, ma insomma sono luoghi di culto islamico. Ma quello, per tornare alla questione principale, io dico che è molto importante e decisivo l'argomento che d'altronde io ho posto al centro della mia interrogazione, dei miei interrogativi alla Commissione e al Consiglio europeo, e cioè si va nella direzione giusta con i partiti islamici, direzione giusta che è quella dell'integrazione degli stranieri extraeuropei, quindi anche degli islamici provenienti da paesi di prevalente religione musulmana, o si va in senso contrario all'integrazione? A me sembra assolutamente evidente che le motivazioni che sono critiche, sono state addotte anche in questa trasmissione, siano da prendersi in grandissima considerazione. Si va a ghettizzare ulteriormente l'islamico, che già rischia, attraverso la predicazione estremista di molti imam in moltissime moschee, di avere un luogo in più di indottrinamento e di esaltazione di quel fanatismo di cui in Europa non c'è proprio bisogno. Allora, vediamo se i due ascoltatori come la pensano. Tariq da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Da dove viene, mi permette, Tariq? Allora, io sono nato in Marocco, sì. Però da 26 anni che sto in Italia. Bene, che ne pensa di un partito islamico? Purtroppo, a malincuore, devo dire che è ancora prematuro, ma non per il fatto che moschee nascano come funghi, oppure per il fatto che ci sia la possibilità da parte di fasce fondamentaliste di inserirsi all'interno del partito. E perché no? Per un semplice fatto di mancanza di organizzazione, per un semplice fatto che alla fine ci sarebbe una lotta di potere, secondo me. Come tutti i partiti, insomma, in fondo. Sì, ma sarebbe un partito come gli altri, lei dice, quindi non... peggiore in un certo senso, perché calcolando che all'interno ci sarebbero molte etnie, molte nazioni, la difficoltà sarebbe trovare effettivamente un leader valido e poi riuscire ad agire e interfacciarsi in maniera pacifica, diciamo. Tariq, lei ragiona già quasi un po' da politico, però, a dire, mi permetta, cioè a dire, il problema è organizzativo, non tanto di un no pregiudiziale. Antonio da Pisa, buongiorno. Buongiorno. Che dice lei? Ma ho sentito anche l'intervento dell'onorevole, insomma, sposo in parte, insomma, tutto quello che ha detto. Io sono convinto di una cosa: un gruppo di cittadini italiani riconosciuti come tali si può riunire e fondare un qualsivoglia partito, il che comunque deve essere sempre aderente alla nostra Costituzione, aderente ai nostri valori. Ora, partito islamico, non credo che, ripeto, io per me si potrebbero pure organizzare in un partito monarchico, non è quello il problema. Il problema è vigilare su sui progetti, su cosa vogliano effettivamente un partito, cosa voglia effettivamente un partito islamico. Quello che a me fa paura, non il partito islamico di sé per sé, che come religione, io credo che ho letto, guardate, è una delle meno violente che possa esistere, perché ha capito Borghezio, una delle meno violente di Sam. Ma io non ho mai detto dice Antonio che la religione islamica sia violenta. Io non aderisco a questa vulgata che spesso indebolisce la posizione che io ho sempre sostenuto, quella di essere contro il fondamentalismo, l'uso politico della religione che fanno certi imam e ovviamente certi agitatori politici sovversivi che si sono infiltrati nella nostra realtà, non sono venuti qui per lavorare, sono venuti qui per fare danno. Questo è il problema. Fuad Allam, lei ha detto il tema vero è quello che un partito come questo creerebbe una ghettizzazione invece che un'apertura, una maggiore partecipazione di chi facesse parte nella vita sociale, nella vita politica di un paese. Questo perché, ce lo vuole spiegare meglio, perché dall'altra parte dice però non abbiamo una rappresentanza, molti magari musulmani, molti islamici, visto che si parla di questo, dice chi votiamo, voglio dire, chi rappresenta le nostre istanze? Sì, questo è vero, anzi il problema fondamentale è questo, cioè la difficoltà di integrazione dei musulmani in Europa e non solo proviene dal fatto che non esiste un'autorità nell'Islam. Allora quando noi parliamo di partito islamico, ma di quale Islam si riferisce? A quello riformista oppure a quello neofondamentalista, a quello salafista, eccetera? E questo pone numerosissimi problemi e credo che la costituzione di un'autorità religiosa in Europa in relazione all'Islam prenderà molto molto tempo, anche perché bisogna formare gli imam, bisogna ovviamente creare dei vettori che siano in grado di far coincidere il rapporto fra Islam e istituzioni democratiche del nostro paese. Secondo problema è che l'integrazione passa attraverso la diluizione delle minoranze religiose e culturali all'interno dei singoli partiti, che siano del centro-destra o del centro-sinistra, se non il rischio è quello di creare delle frontiere simboliche che tenderanno sempre a creare delle apartheid di tipo culturale e mentale che impediscono totalmente il processo di integrazione. Il partito islamico non va in quella direzione assolutamente, e poi significherebbe mettere un po' il carro davanti ai bue, perché prima di tutto, questo Borghezio l'ha detto benissimo, c'è la grande questione degli imam, cioè chi fa cosa e da dove viene, cioè la questione della formazione del personale di culto, non soltanto in Italia ma in Europa, è il primo grande problema. Finché noi non abbiamo un luogo nel quale possiamo essere sicuri che gli imam vengono formati in tal senso, mi sembra che il rischio di derive, di infiltrazione di tipo neofondamentalista o salafista sono all'ordine del giorno. Allora ce la facciamo, Marco da Novara, se è breve, a 20 secondi, favore o contrario? Buongiorno a tutti. Ma io penso che non ci sia nessun problema a far sì che ci sia la possibilità in Italia di avere un partito. Perché non c'è problema? Ma prima di tutto penso che, visto che comunque è una comunità abbastanza estesa all'interno dell'Italia, è una comunità che lavora, sostiene economicamente e produce anche ricchezza per l'Italia. Teniamo presente che fanno molti lavori che i nostri figli. Ho capito, ma che c'entra da fare? È anche una questione, come le moschee, è una questione di rispetto nei loro confronti. Noi dobbiamo comunque far sì che queste persone si sentano sempre più integrate in Italia. Vabbè. Naturalmente dobbiamo far sì che queste persone rispettino le nostre leggi. È chiaro il suo intervento, è chiaro, Marco, le ho dato anche da troppo tempo, ha espresso il suo sì un po' così. Borghezio, io devo chiudere a 20 secondi, però visto che l'ha sdoganata, non l'ho sdoganata io, glielo devo chiedere e non si ritenga offeso, lei si ritiene un po' stronzo? Ma guardi, lei ha anticipato con la sua domanda intelligente. Io dico che se essere preoccupati per certi comportamenti, se essere anche chiari, alle volte anche volutamente duri sui principi come questo, no al partito islamico, che io e la Lega diciamo con molta chiarezza, a rischio anche di accuse, di essere mal interpretati, perché in certe situazioni i politici devono dare anche un'indicazione al loro popolo, alla gente che rappresentano. Se essere così fermi e alle volte anche sgradevoli ci si può guadagnare da parte della terza carica dello Stato questo gentile epiteto di stronzi, guardi, io mi sento onorato di sentirmi chiamato così da chi come terza carica dello Stato sente di dare questa indicazione antipedagogica dei ragazzini stranieri ai quali bisognerebbe invece insegnare il rispetto per le nostre regole, sempre e comunque. Ci dobbiamo fermare, grazie a tutti, Laura Marchesi, redazione, Peter Bescapè in regia, votate su radio24.it e ci sentiamo domattina.